giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Premesso che le leggi vanno sempre rispettate, non posso che denunciare la più profonda contrarietà alla modifica delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Lo ha detto il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, critico sull'abolizione del test d'accesso. Si tratta, ha continuato, di un provvedimento pericoloso e inattuabile. Per Pordenone, capitale italiana della cultura, nel 2027 si aspetta una crescita turistica del 50% negli alberghi, secondo le previsioni di Fabio Pillon, presidente Ascom, così come è avvenuto a Matera nel 2019 con le iniziative della capitale europea della cultura. Per arginare il fenomeno delle aggressioni ai sanitari, gli ordini degli infermieri chiedono l'introduzione, come in Veneto, di bracciali elettronici capaci di lanciare segnali di allarme e body cam. Il coordinamento regionale è pronto a farne richiesta alle prefetture. Nel 2024 Assicurazioni Generali ha registrato un risultato operativo record di 7,3 miliardi. Il patrimonio netto del gruppo è salito del 5%, superando i 30 miliardi, mentre il coefficiente di solvibilità si attesta al 210%. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Inaugurato poco fa l'anno accademico dell'Università di Trieste, la cerimonia è stata aperta dalla relazione del rettore Roberto Di Lenarda e, come prevedibile, non sono mancati i riferimenti molto critici all'abolizione del test d'ingresso a medicina. Ha parlato della crescita patologica degli atenei online, sostenuta, ha detto, anche dal punto di vista legislativo, e poi si è espresso contro la legge appena varata dal Parlamento che cancella già da quest'anno il test ingresso a medicina. Il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, ha aperto il 101° anno accademico dell'Ateneo commentando i fatti di stretta attualità che riguardano il mondo universitario nazionale, e lo ha fatto al termine del suo mandato che scadrà in primavera. Le elezioni del nuovo rettore, o con molta probabilità della nuova rettrice, visto che al momento le candidate sono due, si terranno a maggio. Questi 6 anni, ha detto Di Lenarda, sono stati intensi. L'intera comunità dell'Università di Trieste ha lavorato per rendere l'Ateneo solido e poi si è concentrato appunto su questo via libera, su questa nuova riforma 48 ore fa approvata, che sposta alla fine del primo semestre il filtro per i ragazzi che si iscriveranno ai corsi di laurea in medicina. Premesso che le leggi vanno sempre rispettate, noi lo facciamo, ha detto Di Lenarda, non posso esprimermi dal denunciare la più profonda contrarietà. Si tratta di un provvedimento pericoloso, inattuabile, causa anche di profonde ricadute negli altri corsi, ha detto. Non mancano medici, ma attrattività del sistema sanitario regionale. Il numero programmato rimarrà, ha detto Di Lenarda, anche con questa riforma, e non è concepibile pensare di costruire una graduatoria nazionale sulla base dei voti acquisiti negli esami del primo semestre. Ha fatto appello Di Lenarda a riflettere, fermatevi, ha detto, finché siamo in tempo. In occasione della cerimonia di inaugurazione le autorità invitate hanno parlato, hanno lanciato un messaggio all'Ateneo. L'amministrazione regionale, ha detto il governatore Fedriga, continuerà ad investire nel sapere, nella ricerca, nella formazione, ricordando lo stanziamento regionale complessivo per il sistema universitario in questi ultimi 3 anni, 80 milioni di euro. E poi il legame tra Generali e Università di Trieste è storico, alimentato da importanti collaborazioni, ha detto Andrea Sironi, presidente di Assicurazioni Generali. Poco fa ha parlato la studentessa Anna Colussi, 22 anni, è la presidente del Consiglio degli Studenti, ha fatto un discorso accorato, ha ottenuto un bel applauso che appunto si è sentito poco fa, e ha detto appunto che c'è una generale indifferenza degli adulti che chiedono troppa eccellenza ai ragazzi senza guardare al benessere dei ragazzi stessi, alimentando l'ansia da prestazione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Pordenone, il giorno dopo la proclamazione, a capitale italiana della cultura nel 2027. Il titolo sarà occasione di nuovi progetti e nuovi eventi che animeranno il capoluogo del Friuli occidentale. Ma a cosa si attendono i commercianti? Lo abbiamo chiesto a Fabio Pillon, presidente Ascom Confcommercio Pordenone. Anche alla luce dei precedenti delle altre città, quali ricadute economiche possiamo aspettarci dalla Pordenone capitale della cultura? Beh, innanzitutto mi permetta una grande felicitazione per la gioia di essere raggiunti a questo traguardo, che fra l'altro non era così scontato. E le ricadute, noi possiamo portare per esempio dei dati molto significativi, soprattutto uno, quello di Matera, dove addirittura rispetto all'anno precedente l'anno della cultura ha portato praticamente un più 50% di visite in una città città che già comunque ha del turismo nel suo DNA. E per Pordenone è una grande opportunità. In provincia di Pordenone, per esempio, noi abbiamo infrastrutture alberghiere e extraalberghiere, circa 900 strutture. Questo impegno significa anche poi attenzione da parte del privato a naturalmente a contribuire e a cercare di incentivare il proprio contributo per la riuscita di, non la chiamo una manifestazione, ma di un momento proprio socioculturale e quindi con ricadute sicuramente economiche sia dal punto di vista turistico e sia dal punto di vista anche commerciale. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli ordini degli infermieri approvano il braccialetto antiaggressioni e le body cam per i sanitari che il Veneto ha deciso di introdurre in via sperimentale negli ospedali. Il coordinamento regionale è pronto a farne richiesta ufficiale alle prefetture insieme a un tavolo per la sicurezza sull'esempio di quanto si è già fatto a Pordenone. Tutti concordi che contro la crescente violenza in corsia serva fare di più. Tra gli ordini degli infermieri della regione si fa strada l'intenzione di chiedere di poter seguire l'esempio del vicino Veneto che sta per sperimentare braccialetti antiaggressione e body cam per il personale sanitario. Il presidente regionale degli ordini degli infermieri, Luciano Clarizia, annuncia che al coordinamento nazionale degli ordini professionali in programma la prossima settimana a Rimini, i quattro ordini della regione stileranno insieme una richiesta ufficiale delle misure di sicurezza ritenute necessarie da inviare alle prefetture del Friuli Venezia Giulia. Si punta a seguire l'esempio di Pordenone che ha fatto da apripista, spiega Clarizia, ossia l'attivazione di un tavolo sulla sicurezza del personale sanitario in tutte le prefetture, oltre a un potenziamento delle misure di sicurezza nei presidi sanitari, oltre a quelle che già ci sono, come ad esempio più telecamere all'interno e all'esterno e l'estensione a tutti gli ospedali della sorveglianza H24 di forze dell'ordine e guardie giurate, favorevole alle bodycam nei pronto soccorso e braccialetti nei reparti più a rischio. Il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Trieste, Michael Valentini, per il quale servirebbero, oltre a più telecamere, anche punti luce all'esterno, nelle zone a rischio. Non sono la bacchetta magica che risolve il problema ormai sempre più grave delle aggressioni, afferma, ma sono comunque un ottimo deterrente per arginarle. Quanto mai utili, rimarca il presidente dell'ordine, ad esempio per il personale dell'assistenza domiciliare notturna, per il quale da gennaio il pulsante salvavita collegato a un servizio di sorveglianza privata è stato sostituito con un'app di geolocalizzazione in filo diretto col numero unico per le emergenze. Una misura per Valentini utile, ma ancora insufficiente. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Le persone migranti in arrivo a Trieste dalla rotta balcanica sono in diminuzione. La prefettura ha fornito i dati ufficiali delle domande di asilo nel 2024, che risultano essere la metà rispetto all'anno precedente. Per le ONLUS impegnate nell'accoglienza, però, il calo reale è minimo. La differenza è che ora in migliaia sono invisibili allo Stato. In media sono più di 15 le persone che ogni giorno nel 2024 hanno presentato richiesta di asilo alla Questura di Trieste. Di questi, 2 al giorno sono minorenni. In totale sono 5.642 le richieste, la metà rispetto agli anni precedenti per effetto delle recenti modifiche sulle modalità di presentazione delle domande di asilo. Fra questi, solo poco più di 3 richiedenti asilo su 10 entrano davvero nel circuito dell'accoglienza. Sono alcuni dati del dossier statistico diffuso in occasione del Consiglio territoriale per l'immigrazione riunitosi in prefettura. Cifre che non tornano se confrontate con i dati di un'altra fonte ufficiale, l'agenzia europea Frontex, che parla di un calo di arrivi ancora più drastico, pari al 78%. Per le organizzazioni sul campo il calo c'è stato, ma di appena il 16%. A dirlo sono la Diaconia Valdese e il Comitato Internazionale di Soccorso, abbreviato in IRC, una ONLUS fondata nel 1933 da Albert Einstein e presente a Trieste dal 2021. Nell'anno passato hanno soccorso 14.000 persone migranti insieme alle altre organizzazioni di volontari, solo che ben pochi si presentano in questura. Le politiche migratorie più restrittive, spiega in una nota IRC, hanno creato migliaia di invisibili che sfuggono alle statistiche del governo, anche perché il sistema di accoglienza è in sovraccarico e le persone attendono fino a 30 giorni prima di accedere all'ufficio immigrazione. È un fatto che ogni notte a Trieste decine di persone restano senza riparo. Incontriamo quotidianamente minori non accompagnati, molti sono malati ed esausti, eppure invece di essere protetti vengono lasciati a dormire per strada senza accesso ai beni di prima necessità, così dice IRC. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani, dopo alcuni tavoli di confronto e di approfondimento tenutisi negli scorsi mesi, è stato organizzato in prefettura a Trieste un incontro di presentazione delle definitive modalità di realizzazione dei lavori d'ARS lungo l'autostrada H4 Rasdyrt-Vertoiba, lavori che comporteranno la modifica della circolazione veicolare in ingresso sul territorio italiano. All'incontro è prevista la presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del Vice Primo Ministro della Repubblica di Slovenia Matej Arcon. I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto 34 lavoratori irregolari e 3 in nero in 3 ristoranti cinesi. I controlli hanno avuto luogo lungo la statale 113 Pontebbana e hanno portato all'identificazione di lavoratori senza comunicazione di assunzione e con ore di servizio eccedenti rispetto ai contratti. Sono state proposte sanzioni significative per i ristoratori coinvolti, con una sospensione dell'attività per un imprenditore di Fiume Veneto. Da inizio anno la Guardia di Finanza ha scoperto 56 lavoratori in nero e 38 irregolari, sanzionando 45 datori di lavoro. Numeri in crescita per il colosso assicurativo di Trieste, che chiude il 2024 con cifre più che lusinghiere all'attivo dell'amministratore delegato uscente di Generali, Philippe Donnet. Aumento di quasi il 12% per le azioni a fronte di 1,43 euro a cedola e di un monte cedole complessivo di 2 miliardi e 170 milioni. È stato definito da record il risultato operativo del gruppo triestino Assicurazioni Generali nel 2024, a fronte di una crescita dell'8% e di un valore di 7,3 miliardi. I dati arrivano dal Consiglio di Amministrazione, che si è riunito per l'approvazione del bilancio consolidato della capogruppo e del progetto di bilancio dell'anno scorso. Ma da record è stato classificato anche l'utile netto normalizzato, in aumento del 5,4% e vicinissimo a 3 miliardi 800 milioni, cioè il più alto nella storia del gruppo. Risultati che portano un incremento di quasi il 12% per azione a fronte di 1,43 euro a cedola e di un monte cedole complessivo a 2,17 miliardi e che si inquadrano in un contesto lusinghiero per l'amministratore delegato uscente Philippe Donnet, molto attento allo sviluppo dell'attività e al continuo arricchimento degli azionisti. Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo infatti ha compiuto un balzo in avanti di quasi il 5%, superando così 30 miliardi a fronte di un coefficiente di solvibilità del 210%, a dimostrazione della solidità del capitale. Quest'ultima cifra è una delle poche col segno meno, con una diminuzione di 10 punti percentuali rispetto al 2023 ed è da ricondurre all'acquisizione del gruppo assicurativo spagnolo Liberty Seguros e al programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni completato lo scorso anno. Segmenti significativi sono il ramo vita e quello relativo alle strategie di investimento di beni finanziari e non. Tutte questioni di cui si riparlerà il 24 aprile, data in cui è stata anticipata l'assemblea dei soci, che era già in calendario per l'8 maggio. Nel corso di una manifestazione svoltasi a Gorizia, nella caserma in cui ha sede la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, ACI e prefetto hanno sottolineato l'importanza del rispetto delle regole stradali. 3 giorni dedicati alla sicurezza stradale organizzati da ACI, Automobile Club Gorizia, dalla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli con i formatori della struttura specializzata ACI Ready to Go. Questo evento rientra nell'ambito del progetto Go for Safety FVG per la promozione della cultura della sicurezza stradale che ACI Gorizia porta avanti per conto della regione. Questo progetto in particolare è rivolto ai militari, ma il tema della guida sicura riguarda tutti i cittadini. Uno dei temi sottolineati è quello dell'uso del cellulare. È stato sottolineato che quando si guarda il cellulare solo per vedere chi ci ha scritto senza leggere il messaggio, si fanno 50 metri completamente alla cieca. Il cellulare dunque è il peggior nemico degli incidenti. Valerio Vella, responsabile ACI Ready to Go Gorizia, quali sono le regole fondamentali per la sicurezza alla guida? La regola sicuramente fondamentale sono due e passano dall'utilizzo delle cinture di sicurezza sia anteriori che posteriori, sia dalla velocità. La velocità è una componente fondamentale e principe dell'incidente stradale. Perché? Perché intanto più aumento la velocità, più le forze in gioco fisiche aumentano e quindi aumentano i danni fisici che posso avere, sia perché mi diminuisce il tempo di reazione, perché se io devo fare una manovra, devo evitare un pedone o devo fermarmi, un conto è che vado a velocità limitate, quindi magari un 30 all'ora, un conto è che faccio 50 all'ora. Quindi la norma fondamentale è rispettare le regole, dunque? Assolutamente, le regole ci sono non per reprimere la nostra libertà, ma per goderci la nostra libertà. Gorizia, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi è la giornata mondiale del rene, intesa a sensibilizzare in merito a una patologia che colpisce il 10% della popolazione mondiale e rappresenta l'ottava causa di morte, ma ciò nonostante spesso misconosciuta e poco diagnosticata. Per l'occasione è stato organizzato l'evento Come stanno i tuoi reni, che ha proposto la misurazione della pressione arteriosa e l'esame delle urine all'ospedale di Palmanova. Nello stesso ospedale si è tenuta la conferenza L'insufficienza renale, conoscerla per evitarla, relatore Ugo Gerini, nefrologo e dirigente medico che abbiamo intervistato. Le malattie renali colpiscono circa 850 milioni di persone nel mondo e nel Friuli Venezia Giulia sono circa una stima, 13.000 i pazienti nefropatici. Cosa vuol dire avere una nefropatia? Non necessariamente essere dializzati, però significa avere un'alterazione a livello renale tale da giustificare alcuni sintomi, per esempio l'ipertensione arteriosa oppure il diabete mellito. Sono le due principali patologie, chiamiamole internistiche, che hanno un grossissimo impatto sulla popolazione e sull'evoluzione della malattia renale cronica. Oggi vanno inquadrate più sotto l'aspetto della sindrome metabolica, cioè di una sindrome che coinvolge diversi aspetti del nostro organismo, quindi l'iperuricemia, cioè l'incremento dell'acido urico, la dislipidemia, l'incremento di colesterolo e trigliceridi, l'ipertensione arteriosa stessa, l'obesità che crea l'insulino resistenza che poi evolve verso il diabete mellito, che è il quinto elemento di questa sindrome, che nel mondo è estremamente estesa e quindi ha, sotto questo profilo, ha un'importanza notevolissima, perché bisogna andare a vedere, a cogliere quelli che possono essere i sintomi di progressione di malattia. Questo è lo scopo di questa giornata, uno screening, una divulgazione, un'informazione verso la popolazione, che deve essere sensibilizzata sul fatto che la proteinuria, cioè la perdita di proteine attraverso le urine dettate da un danno renale anche misconosciuto, nessuno sa neanche di averlo, la cosa passa in maniera del tutto asintomatica, e la pressione alta sono invece degli elementi che possono evolvere in una malattia renale cronica, che purtroppo è veramente ha un grosso impatto in termini sia economici sia sulla salute pubblica. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La situazione meteorologica, il cielo è coperto sulla regione, ecco le temperature alle 11, Trieste e Pordenone 11 gradi, Gorizia 10, Udine 9 gradi e 5, Tolmezzo e Tarvisio 6 e 5, Forni di Sopra 5, Piancavallo 2 gradi e mezzo, sull'Ussari 0, sullo Zoncolan meno 1, a Lignano 12 e a Grado 11 e 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: tempo instabile con cielo da variabile a nuvoloso e probabili piogge sparse intermittenti, in genere moderate sulla costa, abbondanti e probabilmente anche temporalesche sulle altre zone. Quota neve a 1200-1500 metri circa. Sulla costa in quota soffierà vento da sud o sud-ovest moderato, con alte maree sostenute sulla costa. Per domani cielo coperto con piogge estese intense che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata, localmente anche molto intense su Alpi e Prealpi Giulie. In montagna nevicate abbondanti, inizialmente possibili fino a 1000-1300 metri, poi in giornata 1200-1500 metri circa. Possibili temporali, sulla costa soffierà vento da sud o sud-est sostenuto, con alte maree anche piuttosto sostenute, in quota vento da sud o sud-ovest da sostenuto a forte. Saranno 3 le start-up selezionate dal Friuli Venezia Giulia per la partecipazione allo SMAU di Londra, il salone dedicato all'innovazione nell'amministrazione che si apre il 19 marzo. Sono Apprendo SRL, Dema System e Pragmatica SRL. Queste realtà sono tra le 40 start-up più innovative del panorama italiano, pronte a presentare le proprie soluzioni a investitori, corporate e stakeholder britannici. L'appuntamento a SMAU Londra si aprirà con una serata all'Ambasciata d'Italia e poi 2 giorni in cui le start-up avranno l'opportunità di confrontarsi con investitori, aziende ed istituzioni. Il 21% dei vigneti è gestito da donne che hanno in mano il 28% delle cantine italiane. Il settore del vino è dunque ancora un universo maschile, ma le cose stanno cambiando. A Dolegna del Colio ha sede una delle 2 aziende in Italia che hanno ricevuto la certificazione per parità di genere. Il mondo del vino è anche femminile, nonostante il fatto che continui ad essere un settore dominato dagli uomini e soprattutto dai luoghi comuni. Nella filiera produttiva enologica le donne si occupano prevalentemente della comunicazione, sono giornaliste, enologhe o imprenditrici. Il 30% dei sommelier sono donne, ma raramente arrivano ai vertici delle associazioni sommelier. Bisogna dire questo, che quelle donne impiegate nelle aziende vitivinicole si occupano all'80% di marketing e comunicazione. Al 76% le donne sono dedicate all'accoglienza, al 51% commerciale e appunto solo il 28% dirigono le aziende. In vigna e in cantina 14%, quindi le donne sono ancora poche dal mio punto di vista, perché si tratta meno di un quarto nel migliore dei casi. Quindi gli uomini producono il vino e le donne lo vendono e lo raccontano. Nel ruolo di caporedattrice del seminario Veronelli, Simonetta Lorigliola visita le cantine di tutta Italia per degustare i vini, ma l'accoglienza non è sempre uguale. Visitiamo la vigna, la cantina, facciamo 2 chiacchiere e poi alla fine ci salutiamo. Manca il momento dell'assaggio. Forse pensano che una donna appunto non ha gli strumenti per apprezzare o giudicare un vino. In regione c'è la seconda azienda in Italia ad aver ricevuto la certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che conferma l'impegno concreto verso una crescita equa e inclusiva. Ce lo racconta Ornella Venica. Non è un traguardo, ma semplicemente un percorso che prevede questa trasformazione culturale per promuovere la diversità e dare valore al ruolo delle figure diverse, non solo donne. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia. È il poeta Stefano Dal Bianco con la raccolta Paradiso, pubblicata da Garzanti nel 2024, il vincitore della 5ª edizione del premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione e dal Comune di Trieste col Museo Letz e a cura di Fondazione Pordenonelegge.it. La giuria, presieduta da Claudio Grisancic, con verdetto unanime, afferma che Paradiso è un libro in cui si realizza quel percorso di una generazione della poesia italiana contemporanea che Giovanni Raboni qualche decennio fa aveva indicato con l'espressione più forma, più senso. La cerimonia di consegna del premio è in programma venerdì 21 marzo, giornata mondiale della poesia, alle 18 negli spazi del Museo Letz in Piazza Ortis a Trieste. Il giorno successivo la nomina di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, in città debutta lo spettacolo teatrale Echi dal Cotonificio, incentrato sulla tematica del lavoro femminile radicato nel territorio, appuntamento all'ex convento di San Francesco alle 20.45. Entusiasta per la nomina cittadina la regista dello spettacolo Silvia Lorusso dell'Inz, che spera in un'ulteriore valorizzazione della vita culturale locale grazie all'iniziativa che tra 2 anni consentirà di mostrare a livello nazionale la propria energia in campo intellettuale. L'abbiamo intervistata per chiederle da cosa è nata l'idea dello spettacolo. Avendo nel territorio un grande spaccato storico che riguarda appunto i cotonifici e in particolare il lavoro delle donne, io mi sono interessata al lavoro e a quello che ha rappresentato la forza lavoro femminile per l'industria tessile, che è stata famosissima negli anni. Era la quantità del personale femminile che ne ha fatto poi un luogo di emancipazione per la donna? Un luogo di emancipazione, perché i cotonifici, la forza lavoro era all'80% di donne. C'era una disparità salariale gli uomini che c'erano avevano un compenso in lire già, mentre le donne in centesimi. Però per le donne, nonostante la fatica, lo sfruttamento, le condizioni disagiate, costituiva motivo d'orgoglio, un'indipendenza economica per la prima volta. E questo serviva a portare il piatto in tavola alla famiglia. C'era un messaggio che volevate trasmettere? C'era una grande capacità di aggregazione da parte delle donne che facevano rete tra loro, la forza lavoro delle donne che poi è stata sminuita nei tempi per gli interessi economici, per gli interessi delle varie, degli industriali, degli appalti eccetera, che hanno lasciato cadere tutto in virtù anche delle fibre sintetiche. Quindi si è perso anche quello che era il lavoro proprio anche artigianale delle donne con il cotone, che rappresentava un'eccellenza nel territorio. Il telecronista Rai Franco Bragagna e l'allenatore di basket Boša Tanjević sono stati ospiti della serata organizzata dal Panathlon di Trieste in Muggia. Bragagna ha intrattenuto il pubblico raccontando numerosi aneddoti dei giochi olimpici che ha seguito. Nelle interviste che ascolterete fra poco, Bragagna, a un anno dai giochi di Milano Cortina, rilancia la candidatura senza confini che coinvolse Tarvisio negli anni 90. In qualche modo erano precursori Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria Carinzia in quella candidatura che poi cade, quindi forse è il caso di ripresentarla? Non sarebbe una cattiva idea attualmente, poi bisogna vedere se ci sono i dindi e la voglia di farlo. Tra l'altro, curiosamente, la prima candidatura fu Klagenfurt, seguita da Slovenia e Tarvisio. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano spingeva verso questa candidatura, poi improvvisamente persero Roma 2004 e allora spostarono tutto su Torino improvvisamente, e la candidatura l'aveva presa Tarvisio in prima persona, non conoscevano dove fosse Tarvisio, improvvisamente è diventata Torino e i tre confini per il Comitato Olimpico Italiano divenne una cosa così, boh, dove vogliono andare, scusate, ma se quattro anni fa li spingevate voi, fa parte del gioco della politica sportiva in questo caso. Si potrebbe ripresentare? Credo che possa essere vincente in maniera formidabile. Oggi il basket come lo vede? Come è cambiato rispetto ai suoi tempi? Ma mi piace meno di prima. Considero che è un buon gioco, grande gioco, ma troppo legato al tiro da tre punti, e sono uno di quelli che criticano questo tipo di gioco. Ma generalmente mi piace, posso guardarle. Ogni giorno guardo tante partite. Il servizio era firmato da Antonio Di Bartolomeo. La scrittrice Martina Baradel presenterà il suo libro Yakuza Blues, vita e morte nella mafia giapponese, in dialogo con la giornalista Luana De Francisco. Appuntamento a Udine, alla Libreria Moderna Udinese, alle 18. E Bob Brown, medico, padre dell'ambientalismo australiano, interverrà in video per la proiezione del documentario The Giants, opera che ha reso il contrasto alla deforestazione e la salvaguardia dell'ambiente parte dell'agenda politica della Tasmania. A Pordenone, a Cinema Zero, alle 20.45, l'ingresso è gratuito. Lidia Menapace, una donna controcorrente, il libro dedicato alla partigiana, femminista e pacifista piemontese che nell'ambito delle celebrazioni per la festa della donna sarà presentato dalle curatrici Rita De Petra e Leda Di Paolo. Appuntamento a Trieste, alla Casa del Popolo Antonio Gramsci, in via Ponziana, alle 18.15. E sono le 12.58 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.